Tutti noi conosciamo Don Bosco, la sua grandezza di educatore e di santo. Ha cominciato più di 150 anni fa a Torino, fondando l'oratorio di Valdocco, e no, la sua opera non è ancora finita oggi. C'è in giro in tutto il mondo case piene di preti e di suore che educano ancora oggi la gioventù. E seppe educare i giovani alla gioia. Non potrei stare qui a parlarvi di Don Bosco, perché alla gioia. È famoso il suo detto: divertitevi ma non peccate. Ma anche alla santità, combattendo il peccato. Tant'è vero che uno dei suoi giovani, poi divenne santo, morto a 14 anni, Domenico Savio, il giorno della prima comunione era così illuminato da Dio e da quanto aveva imparato della fede cristiana, che su un suo quadernetto scrisse: la morte ma non peccati. Cioè, oggi Gesù ti ricevo per la prima volta nel mio cuore e io vorrei che tu, tutte le volte che ti ricevo, trovassi una persona santa, pura. Piuttosto fammi morire ma non farmi peccare. Circa nello stesso tempo, una ventina d'anni dopo, la stessa cosa l'hanno detta diversi giovani in Africa, in Uganda. Questo Carlo Luanga e i suoi compagni erano bei giovani, popolazione africana bella, dei bei giovani, che erano la guardia d'onore del re. Guardia d'onore, i suoi paggi, persone che lo servivano, lo difendevano, gli stavano attorno. Questo re pretendeva da loro delle prestazioni omosessuali. E loro hanno rifiutato, hanno detto: re, noi ti serviamo, noi ti siamo leali, noi siamo tuoi servitori, ma noi siamo cristiani. La Bibbia, nel primo capitolo della lettera ai Romani, proibisce le pratiche omosessuali. Beh, a farla breve, lui ha considerato come un alto tradimento questo comportamento e ne ha uccisi in un colpo solo 12 sulla collina vicina, e scatenò una persecuzione in genere contro i cristiani, non solo cattolici ma anche anglicani. Pensate che in 2 o 3 anni ha fatto fuori un centinaio di persone per la loro fede. La morte ma non peccati, perché hanno capito che il peccato non è solo una cosa sbagliata. Oggi si preferisce usare sbaglio. È un'altra cosa lo sbaglio dal peccato. Peccato è molto di più. È un'offesa alla legge di Dio, è un'offesa al Vangelo, è un'offesa alla fede cristiana. Ma c'è ancora gente, sapete, mica solo nel 1860 e 1886 succedevano queste cose. Ancora oggi Maria Goretti è stata assassinata perché non voleva perdere la sua verginità di fronte a un giovane che diceva di amarla. Non ci ha più visto, l'ha uccisa. Pierina Morosini, una giovane operaia bergamasca, ha subito la stessa sorte per non perdere la sua verginità. Tutta gente attaccata alla fede, attaccata a Gesù. Alexandrina da Costa, in Portogallo, per sfuggire a uno che voleva usarle violenza per la sua sessualità, è saltata giù dalla finestra, non so a che altezza fosse, è rimasta storpiata per tutta la vita, ammalata, ha vissuto tutta la vita in un letto, offrendo, bisognerebbe vedere alcune foto, ci sono delle foto, 2 occhi di cielo, offrendo al Signore la sua sofferenza. la morte ma non peccati. Ma potremmo fare un elenco lunghissimo. E le donne, Gianna Beretta Molla, ma anche altre donne, che non hanno accettato di abortire, cioè di spegnere la vita di un figlio, sapendo che ci rimettevano la loro pelle. Santa Gianna Beretta Molla e altre donne hanno avuto questo coraggio. E amici, c'è persone, e su questo ieri e oggi è la stessa cosa, c'è gente che ha dato la vita per Gesù Cristo, per non commettere peccati. Allora io vorrei assieme a voi offrire questa Santa Messa a Dio, perché ci aiuti tutti, sia per quanto riguarda la purezza, a combattere la lussuria, che come risulta da più di un esorcismo è il peccato prediletto da Satana, sia nel non commettere altri peccati. Amici, io starei qui fino a domani. Ho conosciuto un giovane del mio oratorio che 40 anni fa, siccome lui era appena sposato e c'era una persona, una donna che lo tampinava a tutta andare, non riusciva a scrollarsela in ditta, ha chiesto in direzione di essere spostato in un altro reparto, dove ha dovuto ricominciare tutto da capo, perché se ti spostano loro va bene, ma se chiedi tu di cambiare, capisci che... Ma quanta gente c'è che ha accettato di essere sparata dalla mafia pur di non tradire? Quanta gente ha accettato di far la figura di fronte agli altri dei fessi perché non ha rubato? La morte, ma non peccati. Senza arrivare alla morte, speriamo che il Signore ci conceda la fedeltà al Vangelo e a Gesù Cristo, e quindi no ai peccati.